ospitarvi, anche voi ragazzi, sedetevi, prendete posto, così iniziamo la serata. Vabbè, qua c'è Nicola, Salvatore, Sorpiziana. Devi lasciare libero. Conoscete un paese dove si sente il rumore dei passi? Certamente no. E ci troviamo. Il nostro piccolo paese, immerso nel verde dei boschi, lontano dai capoluoghi, siamo al centro, però siamo né lontani né distanti, viviamo serenamente comunque. Io amo tanto questo paese e ho pensato e ho deciso di rimanere qua. Qui sono nata e qui voglio morire. Mi piacerebbe farvi visitare tante cose di questo posto, però siete in tanti e io ho una piccola panta, la panta del mio cuore perché è la panta di mio padre. Qualcuno di voi mi ha chiesto, ma chi è tuo padre? Perché lo chiamano l'aviatore? E io vi do la spiegazione. Mio padre si chiamava Tito l'aviatore perché 20 anni fa c'era tanta povertà. Arrivò un pacco dall'America e c'erano dei completi per maschietti, erano due cuginetti, l'hanno indossato e la mattina presto, contenti, sono arrivati a scuola. In questi paesi ci sono tanti soprannomi, ecco perché ognuno non è Venice, non è De Rosa, ma porta il nome del papà della famiglia. E allora se andano a scuola e il maestro del posto, come li ha visti arrivare, ha detto ecco, arriva Tito l'aviatore, e da allora è rimasto questo nome. Cirigliano è bellissimo e vi dico, è buio, altrimenti vi porterei in un luogo così bello che si chiama Cristal. È un luogo straordinario. Ci sono tre massi. Un masso è aperto sull'orizzonte, c'è una piccola finestra, un bel vedere. Un altro masso invece ha la forma di un mostro ed è proprio così, fa proprio paura, ma è bello, Cirigliano è tutto bello. Conoscete un altro paese dove si sente il rumore dei passi? Seguirà un tempo di silenzio, un tempo necessario fino alle prossime parole. Lucia Venice. Io conoscevo tuo padre, anche se non sono nato qui. Mi ha insegnato un sacco di cose, il lavoro soprattutto. Mi ha insegnato a fare la legna, a zappare, insomma le cose essenziali di un contadino. Da piccolino venivo spesso qui, da bambino. E mi ricordo mia bisnonna che faceva il fuoco con una forcina. cercava di non farlo spegnere. Uscendo fuori di casa, noto delle donne vestite di nero che camminavano con delle ceste in testa. Le parchiane. Ah, così si chiamavano, mi ricordo. Insomma, io vengo da Matera, sono nato a Matera. Praticamente feci un sogno per il monitore. Io a Matera persi il lavoro. Purtroppo la casa non era mia e quindi l'ho dovuta lasciare, giustamente. E feci un sogno premonitore, sognai la casa di mia bisnonna dove viveva, che c'era una tavola imbandita piena di pesce, pane, tutto e di più. Quindi mi svegliai e dissi alla mia compagna, Cristina, mi sa che ce ne dobbiamo andare, andiamo a Cirigliano, ho avuto questo sogno qui. Dove? A Cirigliano, dove stava mia bisnonna. Presi l'utile essenziale sono venuto qui a Cirigliano e me la sto vivendo bene e penso che fino alla fine dei miei tempi gli avi, mia bisnonna, fino a che arriverà il momento, sarò qua. Pure io non sono nata qui, addirittura io sono nata a Milano, ma quando ero piccola ci siamo trasferiti a Matera. La mia seconda vita è iniziata quando mi sono sposata, dalla città alla campagna. L'amore. Cosa si fa per il tanto e agoniato amore? Pure venire a vivere qui, in un piccolo paese, piccolo, accogliente, al centro della Lucania. A 10 anni, quando mia mamma mi svegliava per andare a scuola, spalancava la finestra, clacson, macchine, automobili, fruttivendoli, gente di qua, gente di là. Mio figlio ha 10 anni. Quando io lo sveglio per andare a scuola la mattina, spalanco la finestra e fuori arriva il silenzio della montagna. Ogni tanto c'è il sibilo del vento, a volte c'è il suono della pioggia, ma quando c'è il sole c'è anche il silenzio. Il silenzio quello vero, che voi neanche ve lo potete immaginare com'è il silenzio vero. Spalanco e guardo di fronte, tengo un quadro fuori dalla finestra. Cambia ogni giorno, dipende dalle stagioni. L'estate, ragazzi, l'estate è il momento migliore. Cirigliano si colora di tanta gente e i bambini ritornano per strada a giocare dopo un lungo inverno. Ma anche l'inverno mi piace. Mi piace quando tutto diventa bianco. Il bianco vero, però, non il bianco sporco della città di quando nevica. Ogni mattina apro la finestra e guardo di fronte a me. Gorgoglione sta arrampicato sulla roccia. Lo guardo e penso. Ma pure noi siamo arrampicati così. Ma le case non si stancano a stare arrampicate, aggrappate alla roccia tutto il tempo. Ma la roccia non si stanca a tenere tutto sulle sue spalle? Quanto! Vieni a seminare un paese che andate non volete! Beh, così sono nato io, 63 anni fa, dalle grida di una roccia, che si è sentita tutta a Laura. Vi dico, a me piace tanto camminare, guarda. Ci affoggio, ci asparge. E ce lo muovei, un po' lo muovei. Le erbacce, le rovatelle. Guarda le mura secche, con le radici che trapanano nel mura secche, per far sì che non gonfiano e se ne vanno in terra. Beh, muovere con è stato fatto. Una volta me ne sono giunto a spazio, me ne sono giocato. E beh, camminando, ho fatto lo spazio. Ho fatto lo spazio, camminando, facendo chilometri, alla fine si è fatto scuro. E dice, ma come l'ho giocato questo spazio? Beh, mi sono chiacchierato e dice, ma sono arrivato fino a quel weekend che non faccio lo spazio. E mi ha detto, ma è così. E lo guardavo di gusto, lo guardavo. E però, ha già fatto lo spazio, sinceramente. Però facendo lo spazio, si è fatto scuro. Sento una voce che gridava. Nico! Io, dalla parte della montagna, sentivo a stella. Io gli dicevo, sai, vedi che stavo con Enna. E che lo dice, retirati, che è tardi. Beh, io mi sono messo a foce all'incontro, però la mia voce rimbombava sulla montagna, sulle rocce. Io lo sparo in turco, ma a foce. Beh, immaginate la faccia di stella. Quando sono arrivato, ne avrò come un guarvone. Io vengo da un posto dove non ci sono le montagne. Io vengo da un posto dove la natura ha un piccolo spazio tra il cemento. Io vengo da un posto dove non puoi uscire di casa ed entrare nel bosco. Dalla città vengo. Ma vivo da tanti anni lontani dalla terra di origine e tutti i luoghi che ho attraversato erano pezzi di umanità. Immersi nel verde della primavera, nel rosso dell'autunno, nel bianco dell'inverno. Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata. È più facile trovare Dio tra il bosco o tra le case? Certamente lui è ovunque. Ma la sua voce la sento più chiara e forte in quel punto del bosco di Accettura. La sento. Lì gli alberi cantano le quattro stagioni di Vivaldi, insieme agli animali, al vento, al cielo, alle montagne. La sento. Lì nel bosco c'è la musica di Dio. Nella sinfonia della creazione anche l'uomo suona, anche lui è voce di questa musica, la musica di Dio. voce, ma è una riflessione fatta da una nostra amica che ha lavorato fin pochi minuti fa, ma per problemi di famiglia non è presente. Filomena. Io sono cresciuta in campagna, a 10 chilometri da qui. Non c'è stata mai differenza tra la casa e la natura. Nessun confine. Gli alberi ci davano i frutti, ma erano anche i pali per la rete di pallavolo e il sostegno per le altalene. Il prato era il palcoscenico dei balletti miei e di mia sorella. La mia casa era la natura prima. Ora no. Vivo in paese e la mia casa sono le mie pareti. Dentro il paese, una volta all'anno, esco da sola a vedere come sta il paese. Esco ad ascoltarlo, faccio foto che ho già fatto. Guardo luoghi che conosco a memoria. Ogni anno è diverso. È bello. Mi piace camminarci dentro, mi provoca piacere. Poi però mi viene come un'inquietudine. Giuro che non so dire perché, da dove arriva, perché mi viene, lo sento qua. Qua mi cresce un'inquietudine, non so se perché in paese ci sono sempre più vendesi appesi o se è sempre stato così. Forse pure prima, quando ero piccola, lo provavo ma non lo sapevo dire, non sapevo dire questa cosa. Non è brutta, solo che c'è, la sento qua. Anche se abbandonata, può essere il nostro nuovo nascondiglio. Ma dove dobbiamo andare? Ma che dobbiamo fare? Come va paura di Valente? Noi da quando siamo piccoli, a 5 anni, i nostri genitori ci lasciavano uscire da soli a giocare. E tanto non ci perdiamo. Il paese è questo, non c'è pericolo di perdersi, anche Valente. Ci siamo persi nei nostri nascondigli. È normale, ne abbiamo così tanti, li cambiamo ogni volta. Anche questo posto lo dobbiamo pulire? Sì, gli dobbiamo dare una sistemata. Ma perché qua non ci vive più nessuno? Perché sono abbandonati. E tanto, qua o te ne vai o te ne va. Come Asia, Michael, questi sono tutti amici nostri che se ne sono andati e vengono solo l'estate, quando c'è più movimento, ci vediamo. Manuel, Gabriel dice, sa, ma non è che questa casa è come quell'altra con il buco? Ah, ma tu dici che la Massarì, quando aprì la porta e subito dopo c'era quel grande profondo buco nero, che per un bene non siamo caduti dentro. Questo qua i grandi non l'avevamo detto. Però ormai lo sanno. Il pubblico viene invitato ad uscire dalla sala e ad affacciarsi sul balcone che dà su un campetto da calcio di erba sintetica. In lontananza, di fronte, il piccolo borgo di Gorgoglione. Si accendono le luci del campetto e dalle panchine entrano al centro del campo tre ragazzi: Luigi, Tonia e Rocco. Cari ragazzi, abitate da poco una terra antica. Avete dentro il sangue, il freddo delle navi che andavano in America, le grigie mattine svizzere dentro le baracche. Era la terra dei cafoni e dei galantuomini, coppole e mantelle nere. Era il sud dell'osso, era un uovo, un pugno di farina, un pezzo di lardo. Ora è una scena dissanguata, ora ognuno è fabbro della sua solitudine e per stare in compagnia si è costretti a bere nelle crepe che si sono aperte tra una strada e l'altra, tra una faccia e l'altra. Tutto è spaccato, squarciato, separato. Sentiamo l'indifferenza degli altri e l'inimicizia di noi stessi. Uscite, contestate con durezza i ladri del vostro futuro. Sono qui, e a Milano e a Francoforte. Guardateli bene e fateli sentire il vostro disprezzo. Siate dolci con i deboli, feroci con i potenti. Uscite e ammirate i vostri paesaggi, prendetevi le albe, non solo il far tardi. Vivere è un mestiere difficile a tutte le età, ma voi siete in un punto del mondo in cui il dolore più facilmente si fa arte, e allora suonate, cantate, scrivete, fotografate. Non lo fate per darvi aree creative, fatelo perché siete la prua del mondo. Davanti a voi non c'è nessuno, siate i ragazzi e le ragazze del prodigio.